altri suoni per martedì 27 giugno, dedicato alla prima parte di carriera degli iperproduttivi Otecker. Per quanto riguarda questo duo di Manchester o dintorni, Rochester, un sobborgo vicino alla città inglese, beh, un attimo di pazienza, perché concludiamo e ci ricolleghiamo alla parte dedicata all'informazione con un messaggio che arriva da parte del tranviere bolognese, un messaggio che condivido a ogni parola. Willy, l'offensiva ucraina è partita attorno al giorno 4 di giugno, dopo quasi 20 giorni non mi sembra di vedere grandi risultati, vedo una mattanza continua sia per le popolazioni che per i militari. Il tranviere bolognese, esattamente, è un modo per fermare questa mattanza è smettere di inviare armi. Questo, insomma, lo dichiaro sempre, comunque e costantemente, innanzitutto e prima di tutto per la pace. Grazie per questa co-conduzione puntuale e precisa al 333-180-9494. Informazione di servizio ulteriore: non avremo la palla 2 di Paolo Onofri quest'oggi, impegnato, e non sarà presente nel Mood Groove. Tra qualche minuto partirà appunto lo speciale tra vero basket e filosofia sui 103.1. ora è il momento di altri suoni: musica elettronica, musica EDM, musica per la Warp Record di Manchester. Questo duo, che prende il nome come progetto Otecker per la Warp Record, si forma nel 1987, ma sarà dai primi anni 90 con tre dischi che hanno fatto veramente la differenza. La loro musica in ambito elettronico è quanto mai completa, eterogenea e costantemente in cambiamento. Il loro primo lavoro, Incunabula, è portato ovviamente per la Warp, ha un approccio che è decisamente soul, viene definito di ambient techno in maniera molto tranciante e frettolosa. In realtà vi è molto di più, fino ad arrivare poi all'espressione contemporanea di sonorità noise and drill and bass, costantemente e freneticamente piena di questi cambiamenti e anche di questa evoluzione. Per quanto riguarda i primi tre dischi, che sono stati dischi fondamentali per tutti gli amanti dell'elettronica, ne ho portato una piccola sintesi, iniziando proprio da questo brano, che è quello in cui gli Otecker hanno dato la linea alla loro musica. Ce lo ascoltiamo e poi torniamo in diretta. 1500, no beh, questo disco è uscito nel 1992, però il titolo ci rimanda a quell'epoca. Incunabula, incunabulo è la definizione con cui veniva descritto il libro, i primi libri, i primi prodotti rilegati e stampati ufficialmente erano gli incunabuli. Come un manuale, come un libro, in questo disco, un libro antico, vi sono un po' percorsi che comprendono l'ambient, la techno, l'EDM, il glitch, la maniera di trasformare il suono dell'elettronica in un'evoluzione che fino a quel momento ancora non si era sentito. La descrizione è molto difficile per quanto riguarda gli Outtech, indubbiamente talenti dotatissimi di ispirazione e di ricerca in una label che ha fatto la storia di questa modalità del suono, che è la Warp da Manchester. Rispondono a nome di Rob Brown e Sean Booth, insieme ai Boards of Canada per quanto riguarda un aspetto decisamente più ambient, e i Played invece più legati all'EDM, più identificati a degli aspetti specifici. Gli Outtech hanno spaziato e stanno continuando a spaziare nei loro suoni. Il disco che tra virgolette li ha portati a un grande pubblico è questo, è il loro secondo disco del 94, Amber, Ambra. Thank you. hanno dato un riverbero caldo all'elettronica, nonostante questo utilizzo di strumentazioni tutt'altro che acustiche. Hanno portato una sonorità che all'epoca, ma anche attualmente loro, sempre avanti, univa l'esoterico all'aspetto, se vogliamo, più concreto, tangibile, intenso. E anche qualcosa che certo metteva da parte un pochettino l'aspetto della leggibilità. Nel percorso che trova il contemporaneo degli Autechre vi è proprio una difficoltà, entrando nel movimento noise, cioè quell'aspetto rumoristico nella musica che a volte li porta ad essere decisamente ostici. I primi tre dischi, Incunabula, Amber e Threepeat, appunto il terzo, secondo me sono dei fondamentali per la musica elettronica, seppur appunto dalla parola esoterico, cioè tutto ciò che è nascosto, sono veramente di difficile spiegazione ma di intensa ricerca, portando una curiosità costante nell'interpretazione di queste micro sensazioni sonore. Questo è il brano che conclude questa piccola selezione dedicata agli Autechre con il loro terzo disco, appunto Threepeat. Tra pochissimo il Move to Groove, subito dopo la pubblicità. Grazie per l'attenzione e anche grazie per darmi la possibilità di portare in questa rubrica delle sonorità che difficilmente vengono proposte nelle frequenze, insomma, che di solito hanno altre playlist. Ecco, in questo caso questi 10 minuti sono dedicati a questi altri suoni. A tra poco.